Allora, 20 e 10 minuti primi, siamo ancora qui, vero? Siamo entrate nella ventesima ora, ce la faremo. Sì, sì, ce la faremo. E lo spazio è lotto tutto l'anno, anche quest'anno, insomma, parte del pomeriggio è dedicato alle mobilitazioni in Italia, ma ovviamente non solo, anzi in realtà non solo, e poi una in Italia, legate alla giornata dell'8 marzo, una giornata di lotta. Quindi andremo a collegarci con Palermo. Che cosa succede? È successo a Palermo? Sì, allora, a Palermo ne avevamo già accennato, questa mattina. C'è stato un volantinaggio, attacchinaggio all'università con materiale relativo alla donna, alle lotte che le donne in India hanno fatto e stanno facendo, e alle 11.30 invece si sono spostate a Piazza Indipendenza in un sit-in di protesta e assedio al Palazzo della Regione Siciliana delle Lavoratrici Precarie e Disoccupate dello SLAI COBAS. Vogliamo fare un breve riassunto delle iniziative che sì, si sono svolte? Sì, facciamolo così intanto. Sì, ricordiamo anche brevemente, insomma, abbiamo parlato già durante la giornata, però ricordiamolo che questa mattina è stato 45 donne immigrate e 3 bambini hanno occupato il centro di accoglienza per rifugiate politiche rifiutandosi di accettare 500 euro e andare per strada in base al decreto che sancisce che dal 1 marzo la fine dell'emergenza del Nord Africa. Rifiutano ovviamente poiché andare fuori significa ricadere in mercato di corpi di donne che si prostituiscono per strada in mano della tratta del loro paese che l'avevano portata in Libia a prostituirsi, finire in mano alla guerra e costrette a fuggire su delle carrette dal mare fino al loro paese. Poi c'è stata una lettera delle lavoratrici di Pisa intitolata Goodbye CGL, che ci era particolarmente piaciuta, in cui le lavoratrici di Pisa della Sodexo ci spiegavano i motivi per cui hanno stracciato la tessera della CGL e della CISL, quindi dei sindacati, e hanno iniziato ovviamente a rappresentarsi da sole e stanno anche ottenendo dei risultati. Poi questa mattina sotto l'ambasciata tunisina a Roma c'è stato il presidio dei familiari dei tunisini scomparsi, e ancora in Sardegna a varie iniziative a Cagliari, ad Oristano, organizzato da vari comitati, comitato 8 marzo delle donne e anche da centri antiviolenza, in particolare dal centro antiviolenza donna Eleonora. E poi insomma c'è stato anche l'8 marzo in Clarea, in cui le compagne hanno scritto un comunicato in cui scrivono che molte valsusine, ma anche tante donne no TAV, non hanno certo bisogno dell'8 marzo per recarsi in Clarea, perché ci vanno tutti i giorni o quasi, ma comunque ci saranno anche oggi. What you gonna do when he gets you, when he grabs you from behind? Feel frightened, lose your voice, your body becomes still. E allora torniamo in diretta, ecco, siamo al telefono con una compagna dell'MFPR di Palermo, una giornata di mobilitazione per voi. Ciao, ci senti? Ciao, saluti da parte di tutte le compagne di Palermo. Grazie, saluti anche a voi. Eh sì, infatti, rientrate in questa nostra lunga maratona, è lo spazio delle mobilitazioni femministe, e quindi abbiamo insomma accennato più o meno della giornata di mobilitazione e lotta a Palermo, ma ovviamente ti chiediamo di riassumerla, anche se credo che siete ancora in mobilitazione anche adesso. Sì, siamo ancora in mobilitazione. Sì, in effetti è stata una giornata molto intensa. Stamattina abbiamo siamo state nella prima mattinata all'università tra le studentesse, sono andate alla facoltà di lettere, in particolare, ma poi in tutta la cittadella, e abbiamo fatto You feel this anger, you've got your pride, you've got your hands on your feet. We've got our courage, our self-defense, none at least for all this year. Somebody follows me, I turn around. Naturalmente sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, si introduce finalmente in questa maratona una voce nuova. Sono molto contenta di essere qui. Vi ricordiamo che stiamo sentendo ancora donne in mobilitazione in questo 8 marzo, non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. Purtroppo è appena caduto il collegamento con Palermo, che stiamo cercando di ripristinare. Poi sentiremo ancora Vienna, Nuova Delhi, Barcellona, Madrid, sperando sempre che la tecnologia e le telecomunicazioni non ci boicottino in questo senso, e l'invito a tutte e tutti è quello di restare in ascolto. Sì, mentre cerchiamo di collegarci con varie situazioni di mobilitazione dell'8 marzo 2013, noi approfittiamo di questi momenti fino a che non troviamo compagne, che forse sì, in effetti le stiamo trovando, ma comunque per ricordare che insomma per molti anni la data invece del 7 marzo, della notte del 7 marzo, è stata in particolare qui a Roma molto importante per le compagne, e che per anni hanno organizzato cortei notturni per quella data. Ci piaceva anche ricordarlo. Ecco, ma abbiamo al telefono una compagna da Vienna. Ah, da New Delhi. Allora niente, parliamo delle cose di casa nostra dopo. Ok. Ecco, abbiamo in diretta una compagna da New Delhi. Allo, Divya? Divya? Hello? Hello, do you hear me? Yes. Yes, happy to hear you. So what happened in Delhi for yes, this? I'm yes, I'm also happy to hear you. We are just back from the Take Back the Night march that happened at India Gate. Ok, so, sono anche molto contenta di essere con voi. Siamo appena uscita di Riprendiamoci la notte, che è stata a Delhi Gate. Ho tradotto, I translate, you can continue. What so the idea was that women need to occupy public space to raise their voice and just feel free in the night also in Delhi. Wait. Yes. So l'idea era di riprendere la notte, di sentirsi molto libere, di andare in giro in Delhi anche di notte e di essere numerose per questa notte. Yes, you can continue. Okay. So many of us went up to India Gate, which is also symbolic of the protests that happened earlier after the December 16 rape. There were songs, there was music, and there was a lot of, loud voices of women speaking out. E allora l'idea era anche di essere in questo luogo simbolico dove sono state tutte le proteste dopo lo stupro di dicembre, tutte le proteste che avete sentito comunque che sono state in gennaio e in dicembre, e la manifestazione è stata molto rumorosa ma con molte voci di donne e con molte musiche. Were there a lot of women? Yes, there were a lot of women, and there were many feminist women who were there. So we sang a lot of songs from the women's movement together. So it was also a time of celebration, a time of solidarity, sisterhood, but also a time of protest. So it was a really good, fun, interesting evening for us. Sì, c'erano tante donne, era veramente un bel momento in cui abbiamo cantato molte canzoni femministe tutte insieme, era un momento di solidarietà, un gran momento insieme, è stato molto molto piacevole, molto forte. Divya, you know that now we have to hear also Vienna with Lisa and also Barcelona and also Madrid. So I just stop now because we are really happy to hear you, and let's continue the fight. Okay, I want to just say happy International Women's Day and Antarashtriya Mahila Divas Mubarak Ho Sabko. Okay, grazie. Okay, thank you so much. Thank you. Grazie. Che ha detto la fine? Lovely speaking to all of you. Thank you. Enjoy. Thank you. Bye. Bye. Che ha detto la fine? Why can't you take me to the top? Allora sì, ci ha salutato in indiano, in effetti. Si è sentito un momento di smarrimento, cosa ne ecco. Desperate touching, suicide. E allora abbiamo ritrovato la compagna di Palermo con cui appunto ti avevamo persa per strada. MFPR da Palermo, ci stavi raccontando appunto della giornata di lotta, sì, di mobilitazione lì da voi. Sì, è stata una giornata veramente molto intensa e ancora non è finita, nel senso che stamattina, nella prima mattinata, nella prima metà della mattina, siamo andate all'Università di Palermo. In particolare alla facoltà di lettere, ma poi anche così in tutta la cittadella, e lì abbiamo fatto un volantinaggio tra le studentesse, attaccinaggio in particolare sulla questione della violenza e legandola alla questione India, perché noi oggi abbiamo promosso queste, non solo noi, ma sia in Italia, in diverse città, ma anche in vari paesi europei e anche non al di là dell'Europa, questa iniziativa, diciamo, di costruire un ponte di solidarietà e di lotta con le donne indiane, che in questi ultimi mesi sono state protagoniste, diciamo, nella lotta contro la violenza sessuale, contro gli stupri, e quindi noi oggi abbiamo fatto questo intervento all'università portando un foglio speciale su questa questione, una locandina, e poi abbiamo fatto una calata di striscione da una facoltà, proprio affacciandoci da un balcone con questo striscione che abbiamo fotografato, insomma, per poter portare in giro questa iniziativa. Le studentesse, devo dire, molto sono state... Cosa c'era scritto? Scusa, Donatella, cosa c'era scritto sullo striscione? Nello striscione c'era scritto dall'India all'Italia al mondo intero, contro stupri, femminicidi, oppressione, scateniamo la ribellione delle donne come forza poderosa della rivoluzione. C'era uno striscione bello lungo. Sì, perché te l'ho chiesto perché anche qui a Roma è apparso oggi nel pomeriggio uno striscione, sì, sotto l'ambasciata. Già la compagna nostra è andata al consolato, all'ambasciata, voglio dire, a Roma, e tra l'altro con lei abbiamo fatto anche un ponte telefonico, perché mentre noi lo facevamo a Palermo ci siamo collegate con lei a Roma. E poi invece nella seconda parte della mattinata ci siamo spostate alla presidenza della regione, nella piazza di fronte al palazzo della regione, che dove praticamente abbiamo fatto una protesta. Eravamo più di un centinaio tra lavoratrici precarie e disoccupate, che a Palermo da diversi mesi ormai lo siamo, sia per difendere il lavoro sia per averlo un lavoro. Però questa protesta non si è limitata solo alla denuncia del lavoro che manca o del lavoro che ci vogliono togliere, ma abbiamo portato anche tutto quello che ci investe anche come donne, quindi la mancanza dei servizi sociali, le politiche di conciliazione lavoro che ci vogliono imporre per ricacciarci sempre a casa, il discorso della violenza, e quindi comunque per esempio le molestie sul lavoro, anche perché molte nostre precarie lo vivono, per esempio le precarie delle cooperative sociali, il discorso dell'aborto, che mancano le strutture, infatti c'erano le lavoratrici del policlinico, dell'ospedale, che hanno denunciato molto questa cosa. E, diciamo, la cosa che è stata una manifestazione molto combattiva, abbiamo bloccato la strada, ci sono stati momenti di tensione con la polizia, che era in assetto antisommossa, poi c'è stato un momento, siccome è durato un bel po', con continua denuncia, slogan, appunto blocco della strada, traffico in tilt, è arrivato a un certo punto il presidente della regione, Crocetta, è sceso ed è venuto praticamente incontro a noi, perché ci ha detto che lui sentiva dal palazzo che noi appunto lo attaccavamo, nel senso proprio della non presenza di queste istituzioni che se ne fregano e che chiedono solo il voto quando ci sono le elezioni e poi non gli interessa niente di niente, e quindi è sceso con una scena quasi ridicola, circondato da 6 uomini gorilla che lo tenevano bello circondato. Noi l'abbiamo praticamente accerchiato, quindi ci sono le foto di questo presidente della regione accerchiato da tutte le lavoratrici, e lui ha detto che non è vero, che lui invece è molto sensibile sulla tematica delle donne, che si interesserà, e noi gli abbiamo detto di rimando, ok presidente, lei faccia la sua parte che noi faremo la nostra, continuando a lottare fino a quando non ci saranno riconosciuti veramente i nostri diritti. Quindi è stata una manifestazione molto combattiva, devo dire, le lavoratrici molto attive. Avevamo uno striscione dove c'era scritto siamo lavoratrici, precarie e disoccupate, ma siamo anche donne, noi questa crisi non la vogliamo pagare, le doppie catene vogliamo spezzare, e poi la nostra parola d'ordine, che ci auguriamo che un giorno diventi reale, non solo a Palermo ma in tutto il paese, per uno sciopero delle donne. Sì. Adesso invece siamo, mi sentite? Sì, sì, sì, sì. Adesso siamo qui in sede, nella nostra sede, e stiamo concludendo la serata con invece un momento così collettivo di festa, ma faremo anche la videoproiezione di un film sotto accusa come denuncia, diciamo, della questione della violenza sessuale, sia per mettere in evidenza, diciamo, la situazione che c'è nel nostro paese e comunque la necessità della lotta che ci vuole nei confronti di questa questione, e anche ricollegandoci poi alle lotte che in tutto il mondo fanno le donne, dalle egiziane alle palestinesi, insomma, fino alle indiane. E quindi adesso tra un po' cominceremo questa proiezione del film, per cui per questo dicevo una giornata intensa, perché siamo state proprio impegnate dalla mattina fino alla sera, diciamo. Eh sì, del resto, insomma, poi parli anche di lotte che voi seguite anche durante tutti gli altri giorni, non solo sì, l'8 marzo. Oggi l'abbiamo puntualizzato, cioè che comunque l'8 marzo è ovvio che è una giornata particolare ed è giusto ancora una volta dare quel valore giusto a questa giornata, che invece viene sempre più svilita e sempre più ridicolizzata. Però in realtà poi la lotta è sempre, ogni giorno. Infatti oggi lo dicevano le lavoratrici: lottiamo l'8 marzo, ma lottiamo ogni giorno praticamente. Sì, le lavoratrici ne sanno qualcosa. Bene, noi ti ringraziamo. Mandiamo i saluti, aspetta un attimo, ragazzi, mandiamo un saluto alla radio di Roma. Sì, ciao. Mi stanno facendo lo slogan. Bene, sentiamo. Questo è il saluto che vi mandiamo. Bene, apprezzatissimo, il migliore. Bene, noi vi ringraziamo molto, vi lasciamo al vostro momento un po' più di socializzazione, quindi a riposare un pochino, okay, dopo questa lunga... Ok, salutiamo naturalmente tutte e tutte le compagne e donne che oggi comunque nel nostro paese hanno sicuramente messo in campo diverse iniziative che abbiamo comunque visto, sia tramite Inter sia tramite il vostro palinsesto, e tutte le donne che nel mondo lottano per cambiare qualcosa di realmente, diciamo. Benissimo, ci uniamo, okay, a te e a tutte voi un abbraccio e un saluto. Ciao, ciao, ciao, saluti, ciao, ciao. E sì, in effetti registriamo, diciamo, sul versante dell'Italia poche manifestazioni e mobilitazioni quest'anno. Andremo a sentire più, appunto, le mobilitazioni in Spagna, sia a Madrid che a Barcellona. Poi forse riusciremo a collegarci anche con Vienna, dove è in corso una manifestazione. E insomma, così, no? Quest'anno un po'... Ti avevo tolto. E questa maratona va, sì, sì, sì, sì. For me, e siamo finalmente in collegamento anche con Madrid. Sappiamo che nello Stato spagnolo le manifestazioni iniziano abbastanza tardi, quindi questa sera siamo praticamente in diretta con la piazza, la strada. Hola Susana, hablamos ayer desde la radio. Hola. Un poco para contar qué hacéis vosotras y esta noche estamos hablando directamente desde la Mani, ¿no? Sí, estamos, ya ha empezado la manifestación, que empezó a las 8 de la noche, Bueno, con un poco de lluvia, pero ahora mismo se ha despejado, así que bueno, en algún momento pensábamos que la lluvia podía entorpecer un poco la manifestación, pero no, parece que no, y aquí estamos. Sì, allora dice che appunto la manifestazione è cominciata alle 8, c'è un po' di pioggia, temevano che questo potesse un pochino addormentare la manifestazione, però no, sta spiovendo e comunque c'è partecipazione. Bueno, y no sé si quieres explicarme un poquito más los lemas particulares de este año para la manifestación del 8 de marzo, ¿no? Sí, la plataforma de 8 de marzo, todos los años aquí en Madrid se reúne, que la plataforma la forman varias asociaciones de mujeres, de asociaciones de mujeres y feministas, que lo que intentan es llegar a un acuerdo de un lema, una temática, en fin, el recorrido de la manifestación. Y este año el lema es Seguimos en lucha. Sì? Contro l'escolio de nuestras vidas y nuestros cuerpos. E dunque, quindi c'è una piattaforma vera e propria che si riunisce a Madrid ogni anno, composta appunto da vari gruppi di donne, che cerca ogni anno poi di dare una caratteristica, una tematica particolare, uno slogan, dicevamo, e quest'anno appunto si dice appunto, diciamo, continuiamo appunto in lotta contro la spoliazione delle nostre vite. Yo creo que es particular en estos años, en los últimos años, sobre todo por el tema de la crisis, porque estamos contando muchas veces que las mujeres son las primeras que pagan la crisis, ¿no? Exacto. El hecho de hablar contra el expolio de nuestros cuerpos pues significa que nuestra calidad de vida como mujeres se ha visto disminuida, ¿no? Y que además directamente como muchas políticas en contra de las mujeres está en detrimento de nuestra vida, ¿no? De la vida y de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, un poco por ahí queríamos insistir este año justamente en el momento que vive España también, ¿no? Sì, e quindi appunto io commentavo sul fatto che praticamente in questi anni di crisi in particolare possiamo vedere come siano le donne, no, le prime a pagare, quindi anche qui si sta parlando di spoliazione, anche spoliazione dei propri corpi, e proprio perché nella nostra quotidianità, nella qualità della nostra vita, poi siamo le prime a essere appunto disminuite, diceva giustamente Susanna, e quindi si insiste su questo tema. Mira, ¿y cuántas mujeres hay, no? Y me interesaría también saber un poco la participación a nivel de tipos de mujeres, ¿no? ¿Sabes qué tipo de trabajadoras? Si hay muchas mujeres jóvenes, un poco para saber más qué tipo de espectro, ¿no? Se presenta. Sí, bueno, este año yo creo que, aunque no logro ver toda la manifestación, porque está viniendo, está justo frente mía y no logro ver cuánta gente hay, pero lo que sí es que este año la convocatoria a esta comisión del 8 de marzo fue muchísimo más abierta y a la que acudieron incluso, por ejemplo, el grupo de feminismo del movimiento 15M aquí en Madrid, que viene trabajando muchas temáticas y, bueno, es, digamos, un movimiento muy muy de base. Y yo creo que ahí eso ha impregnado también de muchas jóvenes. Esta celebración, que es verdad que en los últimos años se había convertido como en un encuentro de las viejas feministas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este año hay ese nuevo elemento, ¿no? Hay una gran diversidad, no nada más de mujeres, de lo que somos, de lo que representamos, de nuestras identidades y demás, sino que también a nivel generacional también es increíble, y creo que también lo dicen mucho las viejas feministas que ven a mujeres jóvenes este año, ¿no? Sì, allora ho chiesto anche un pochino sulla composizione, qual è la partecipazione rispetto alla manifestazione, mi veniva proprio a dire che tipo di donne, che tipo anche di lavoratrici, se c'erano delle giovani, e Susanna si è riattaccata proprio alla tematica delle giovani, di molte che sono arrivate, si sono unite, questo anche attraverso le femministe del movimento 15M, perché appunto la convocazione è stata molto aperta, sono stati molti gruppi diversi fra loro a dire di sì, a partecipare, e all'interno proprio del movimento KinFem ci sono molti temi, c'è un lavoro anche di base, e quindi c'è stata anche la felicità di vedere la partecipazione di donne giovani, anche perché negli ultimi anni invece le scadenze, gli appuntamenti del movimento femminista vedevano la partecipazione di donne con più esperienza, di donne più anziane, di vecchie femministe, invece questa grande diversità, questa ampiezza generazionale, questo rinnovamento generazionale è sicuramente un carattere da notare, da sottolineare, da apprezzare. Bueno, Susana, yo no sé si quieres añadir algo y si no... Sí, bueno, añadiría que justamente esta renovación un poco del movimiento, o por lo menos un reencuentro, ¿no?, de las nuevas, las medianas y las viejas feministas, es que este año se cambia el recorrido. Era un recorrido muy antiguo, muy recto, ¿no?, antes, y este año vamos a dar más vueltas y vamos a llegar a la Glorieta de las Cibeles, que es básicamente también una cosa emblemática aquí de la ciudad, y creemos que es más visible, que vamos a tener más visibilidad, y por ahí también romper con algunos recorridos que parecían inamovibles. Así que yo creo que esa es la novedad, y la verdad es que sí, que ya estoy aquí en Puerta del Sol y ya está llegando la cabecera de la manifestación, con un coño enorme presidiéndola. Qui sì. Scusate, qui noi cominciamo a ridere perché avevano capito anche le altre persone presenti qui. Parto dalla coda perché appunto ci raccontava della testa della manifestazione, che ha praticamente una enorme vagina, no, che campeggia, per cui è una cosa che ci fa ridere, ma ci fa ridere di contentezza, di gioia. E quindi questo, lei parlava appunto di questo rinnovo, di questo rincontro fra generazioni diverse, cambia un corso, ma cambia anche proprio il percorso, proprio per continuare a prendersi posti, punti della città, e quindi affrontare di più, in una maniera più dirompente, quelle che sono poi le tematiche, portare avanti le lotte in una maniera più dirompente. Bueno, Susana, ha sido un gustazo hablar contigo, como siempre. Igualmente. Y bueno, solo decirles mucho ánimo, ya falta menos que antes. Y quindi ci faltan menos horas. Venga. Sì, muchos besos a todas, sì, ánimo. E quindi appunto ci augura di avere tanta forza, tanta energia per continuare, anche se manca meno di prima, manca sempre di meno rispetto al nostro percorso, e poi ovviamente ci manda tanti baci. Bueno, y seguimos hablando, seguimos estando en la red nosotras, y seguimos como mujeres, como feministas, compartiendo nuestras luchas, nuestras emociones y nuestras vidas. Un abrazo grandísimo. Claro que sí. Un beso, ciao Susana. Ciao. Quindi questa era il collegamento con Madrid. Stiamo cercando di stabilire altri collegamenti in questo quarto d'ora circa, essendo generose, che ci resta per questi collegamenti, e parlare ancora una volta di come vengono affrontate in piazza, ma non è stato l'unico momento nella lunga giornata di oggi nella maratona femminista. Quindi ancora una pausetta giusto a farvi riposare e a far riposare un pochino anche noi. Ricordo che siete all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è un venerdì femminista e lesbico autogestito, eccezionalmente di venerdì, proprio per la maratona. Io sono contenta di essere nuovamente con voi. L'anno scorso è stata stupenda, quest'anno vi ho ascoltato, secondo me è stata ancora più bella. Vi vedo anche un po' più rilassate, quindi questa è una cosa molto piacevole. E quindi invito tutte e tutti a restare all'ascolto. I know. eccoci. Eccoci, siamo in piena manifestazione di Vienna. Allo? Allo Lisa, do you hear me? Hey. Hi. So, can you hear me? Yes, I can hear you, and I also can hear that you are in the manifestation. I didn't hear what? You are in the demo, no? Yes, I am in the demonstration. We are in the end of the demonstration. How it is? And yeah, it was very powerful. We are about 600-700 women lesbians, and we took a part, and we also part of the demonstration. We went through the underground station because there was 2 months before a rape in the underground station, and we made action there. And now we go to the, because there is also refugees resistance camps. Ok, allora da quello che ho capito è che sono numerose, sono 6 a 700 donne che stanno in giro di Vienna, ha detto da dove a dove vanno, che non si capisce bene. Dalla fermata, ah, dalla fermata della fermata. Qui in tre a capire un po' disturbata. Lisa, it's a little bit difficult to understand you. I think we will not do a lot, but because it's nice to hear all the voice, and we will you can't hear so well, huh? Give you some power from Rome. Pardon, what? A lot of friends and sisterhood for you from Rome. Ah, super, yeah, okay, I will say it to the microphone afterwards. Super, and you had also a strong demonstration? No, we didn't have a demonstration, we are doing 24 hours of radio, Feminist Radio. Ah, okay, okay. So, hear you soon. What? Hear you soon. Have a good time. Okay, yes. Yes, see you soon. Okay. Yeah, thank you very much. Thanks to all of you. Okay, bye-bye. Bye-bye. È stato un po' difficile, praticamente impossibile capire quello che ci voleva raccontare. Non abbiamo dato la possibilità, o meglio, le difficoltà acustiche non ci hanno dato la possibilità di parlare veramente con Vienna. Ma comunque abbiamo sentito un po' di megafoni. Esattamente. Sono in piazza loro. Esattamente. Insomma, infatti abbiamo sentito quantomeno questa forza, il suono della forza delle donne. Qui, Silvi, mi permetto di tradurre te. che appunto cercava di inviare altrettanta forza, insomma, da qui, da Roma, proprio per proseguire sì, la lotta. Ci ha anche chiesto se noi andavamo anche in manifestazione. Abbiamo detto di no per quest'anno, ma comunque lo dobbiamo fare, sì, perché sarebbe, basta adesso, sarebbe ora. Due anni o tre che non si fa niente, dobbiamo reagire. Tanto a fare una 24 ore ci sono donne sufficienti, ce ne sono molte altre che un po' si possono fare, o anche ci alterniamo come si fa, come sempre. Abbiamo altre? Sembra di capire che stiamo riuscendo anche a stabilire un nuovo collegamento, mentre ormai si sta esaurendo questo spazio. Sì, finiamo con Barcellona, mi sa. Finiamo con Barcellona, infatti, rispetto al palinsesto ormai abbiamo accettato questa mezz'ora di ritardo, esattamente, e quindi lasceremo poi spazio al centro Donna Lisa. Non capiamo esattamente, intanto quindi ci prendiamo una piccolissima pausa. Perfetto. Giuseppina in una precaria. È solo che qualcuno ha deciso di mandare un audio in sottofondo, per cui ci sentiamo qualcos'altro. Champagne in your eyes, I'm gonna shoot you. E allora un'altra piazza, questa volta ci colleghiamo con Barcellona, dove è in corso anche lì una manifestazione, lo sentiamo chiaramente, un corteo indetto dal comitato 8 marzo. Ci senti? Abbiamo una compagna e amica del martedì, sì, tra l'altro. Sento. Ciao a tutte. Ciao. Sì, noi ti sentiamo. Bene. Senti, allora intanto raccontaci un po' come sta andando questo corteo. Sì, allora inizio un po' con il corteo. Il corteo sta andando molto bene, siamo credo almeno 5.000, è un corteo organizzato diretto dal Comitato 8 Marzo che raccoglie vari spazi e collettivi femministi non istituzionali a livello della città di Barcellona. È organizzato in due blocchi, diciamo, con il blocco iniziale di apertura che è un blocco separatista non mixto, e poi il blocco finale invece è aperto a chiunque voglia partecipare. Siamo quasi per arrivare verso la fine del corteo, che è iniziato verso le 6:30 da Plaza Università, e questa è solo una delle tante iniziative che si sono sviluppate in questi giorni nella città di Barcellona, organizzate da vari collettivi femministi non istituzionali. Di fatto io sto qui con una compagna di Sevar Marla Borda, che sono le giornate di Azione Femminista Autonoma, che sono alla terza edizione, sta al terzo anno, quindi non so se c'è qualche compagna lì da voi che parli anche spagnolo, magari vi posso passare direttamente con lei, così vi può parlare di questa programmazione bellissima, interessantissima, importantissima, e che continua anche tutta la prossima settimana. Va benissimo, allora ci passi questa compagna e poi magari ci possiamo anche risentire e ci dici magari qualche slogan che stiamo sentendo, se vogliamo tradurlo, o lo striscione d'apertura per esempio del corteo, tanto per descriverlo un attimo. Ok, d'accordo, vi passo questa compagna di Sevar Marla Borda e poi torniamo a parlare per chiudere sulla manifestazione di oggi, se benissimo, vi va bene, grazie, d'accordo? Grazie. Ok, a fra un po'. A fra poco, sì. Hola. Hola. Hola, bienvenida. Hola. Grazie. Es que te oigo muy mal. Hola. Espera, un momento porque no oigo mucho. Ah. Yo tampoco. Es que estamos en medio de la manifestación. Sí. Sí, sí, venga, venga. Hola. Bueno. Ya está. ¿Qué sí. tal? No, todo bien, todo bien. Estamos hablando un poco con varias compañeras de distintas partes del mundo y también de Italia para saber un poco qué están armando o qué armaron un poco para el 8 de marzo. Yo sé que vosotras, bueno, habéis organizado mucho más, no solamente para el 8 de marzo, sino como unas jornadas de acción feminista autónoma, ¿no? Y sí. Nos interesaría saber un poco todo el programa, pero en dos minutos, si logras. Sí, bueno, estas son las jornadas de Barmar la Gorda y este es el tercer año que las hacemos. Sí. Y es bueno, surgen un poco de las ganas de dar un poco de caña, ¿no? Al 8 de marzo, que en realidad aquí en Barcelona era súper aburrido y como con muy poca intensidad. Espera, entonces, que lo voy a traducir. No, questo è il terzo anno che organizzano le giornate, nasce proprio dalla voglia di dare un pochino più di energia, di vigore alla mobilitazione, insomma, per l'8 marzo, perché negli ultimi anni si era un po' infiacchito, era un po' più noioso. Venga. Y sobre todo eran las ganas también de hacer un poco de acciones en la calle, acciones autónomas, como fuera de las instituciones, sin partidos políticos y sobre todo no mixtas, acciones para mujeres lesbianas y trans. E appunto la voglia di fare anche delle azioni che fossero nella strada, anche delle azioni presso delle istituzioni e che vedesse con la partecipazione di donne femministe, lesbiche e trans. Y entonces, bueno, este es el tercer año y cada año como que las jornadas van creciendo y este año tenemos 3 semanas de acciones en la calle, diferentes tipos de acciones. E quest'anno cresce, insomma, crescono queste giornate, questa volta addirittura 3 settimane di azioni. Y nada, entonces un poco las acciones, o sea, este año, por ejemplo, empezaron el 1 de marzo. Se hizo una masa crítica feminista, que es bueno, ir con bicicletas por la ciudad. E quest'anno è cominciato il 1° di marzo con una critical mass femminista, che è andata quindi in bici per le città. Y luego hemos trabajado temas como la gordura, ¿no? De un poco el fat feminism. E poi si è parlato anche del tema appunto di essere grasse, quindi di fat feminism. Uh-huh. Y bueno, ayer por la noche hicimos una manifestación nocturna para mujeres lesbianas y trans en el barrio de Gracia. E ieri c'è stata a Gracia una manifestazione notturna per donne lesbiche e trans. Y bueno, luego hay un montón más de acciones, por ejemplo, con el tema de transportes públicos. Se ha organizado una colada que le llamamos nosotras dentro de los, bueno, del metro de Barcelona. Sí, e poi hanno anche organizzato un'altra iniziativa all'interno della metropolitana di Barcellona, proprio sul tema del trasporto pubblico. Mm-hmm. Y bueno, luego hemos hecho algunas acciones en centros de cosmética, bueno, acciones en contra de, bueno, de la ciudad de consumo. Poi in centri cosmetici, per esempio, in centri appunto si cura l'aspetto estetico proprio contro la società, la cultura del consumo. Y bueno, el próximo domingo vamos a hacer todo un día vamos a ocupar una plaza de la ciudad, donde se van a desarrollar un montón de actividades. E domenica prossima ci saranno diverse attività proprio per strada, perché andranno a occupare una piazza. Mm-hmm. Che se va a parlare di violenza. Uno de los temas que se va a hablar es un debate con el tema de violencia y mujeres, el tema de cómo el uso de la violencia por parte de las mujeres. E poi sì, uno dei temi che ci saranno, uno dei dibattiti sarà proprio sulla violenza e anche dell'uso della violenza da parte delle donne. Y bueno, ahora no sé, seguramente me dejo alguna acción más. Que no sé si alguien nos ha pasado el cartel, que os lo podemos enviar también. Ah, hanno detto anche che ci potranno mandare proprio il manifesto per sapere un pochino meglio anche il programma. A uno lo tenemos, pero sí. Que podemos pedirle a Flo que lo mande, porque me parece bastante, me parece muy rico, ¿no? Con muchas actividades, sí. Un ejemplo, quizás. Uh-huh. Porque mira, te cuento que nosotras empezamos con el maratón, porque sabíamos que unas compañeras hispanohablantes también hacían un maratón feminista, de radio feminista, ¿no? Quizás sí, hoy, también puede ser así con las jornadas, ¿sabes? No, stavo raccontando che è una cosa interessante, potrebbe essere ad esempio, del resto la maratona qui è iniziata sulla falsariga di una maratona di radio femminista da parte di donne ispanofone, quindi chissà, magari anche questo potrebbe essere uno stimolo. Sì. Hola, y entonces no sé si queréis que os cuente alguna cosa más, por ejemplo, si queréis seguir todas las acciones, crónicas de las acciones, tenemos un blog donde ahí se puede ir consultando todo lo que está pasando en la ciudad estos días, que ya han pasado muchas cosas, pero todavía quedan muchas cosas por pasar también. Sí, bueno, mejor que nos dé un poco la dirección de este blog, porque lamentablemente tenemos muy poco tiempo, que tenemos una parrilla enorme con muchas mujeres, con muchos programas, así que no podemos quedar mucho tiempo hablando contigo, pero nos gustaría saber más y bueno, quizás podemos hablar también con otra conexión en la programación ordinaria, normal, del martes autogestionado por feministas y lesbianas, ¿no sabes? Podemos hablar otra vez, te podemos llamar y saber un poquito más. Vale, bueno, como el programa es tan largo... Aquí, sí. Nuestro blog que se va a armar la gorda, WordPress. ¿Sí? Consultarlo. Y nada, seguimos adelante con la lucha. Bien, bien, super bien. Quindi ha segnalato, dicevo che purtroppo per motivi di tempo dobbiamo stringere, però possiamo risentirci anche perché il programma è così lungo. Noi vi invitiamo sul blog che è su WordPress, che è Se va a armar la gorda, e quindi poi ve lo ridaremo. WordPress? Sì, che se lo stava contando. WordPress, io credo che è .org, no? No? O .com. Vamos a averiguarlo. E quindi insomma si può vedere lì e ovviamente c'è il solito augurio di continuare nella lotta. Bueno, ha sido un gran gusto hablar contigo y te agradezco muchísimo. Yo también te digo mucho ánimo, te envío mucha fuerza y espero hablar otra vez contigo con las otras compañeras. Igualmente. Fuerza. Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao. Hola. Sí, hola. Sì. Sto parlando... Sì, sì, sei tu, ok. No, è solamente per salutarci perché purtroppo noi dobbiamo stringere e quindi è cambiata anche la voce, buonasera. E quindi noi ci salutiamo ovviamente lasciando questo canale comunicativo aperto perché per puri motivi di palinsesto ci fermiamo qui, ma ricominceremo a parlare sicuramente in un'altra occasione. Va bene, ti mando un abbraccio grande, grande, che grazie davvero. Femminista, un abbraccio femminista, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi anche questo era il collegamento con Barcellona. Io non so se abbiamo concluso, a questo punto mi fanno tutte cenno di sì e siamo riuscite anche a rispettare la mezz'ora precisa di ritardo. Qui si sentono anche gli applausi. Benissimo, quindi restate ancora all'ascolto di questa maratona femminista che andrà avanti fino a mezzanotte, seconda edizione, quella del 2013, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.